Capitolo 14. Venezia, 6 marzo 1545. Campo Barbaro, la punta estrema della Giudecca. La splendida abitazione dei Michez fronteggia Piazza San Marco, che in una giornata limpida di sole come questa sembra a portata di mano. La casa è signorile, con un giardino interno ricco di vegetazione e piante sconosciute. Gli oggetti raccontano di un interminabile vagabondaggio. Tappeti, porcellane, mobili, tessuti. Dalle propaggini africane che sfiorano la Spagna e il Portogallo alle porte d'Oriente, al turco che lambisce l'Adriatico e si incrocia qui, con le forme moresche e iberiche. Una miscela bizzarra e originale. Croci greche ed enormi crocefissi in argento spagnoli, ma anche candelabri a sette braccia e teche, contenenti rotoli di pergamena e monete, che sembrano provenire dai sepolcri dei profeti della Bibbia. Vengo fatto accomodare in un ampio patio, affacciato sul giardino. João Míquez apre con cautela una scatola di legno e mi offre un sigaro. Non riesco a trattenere un moto d'entusiasmo e di piacevoli ricordi. Fa piacere incontrare una persona che sa apprezzare gli aromi delle Indie. Un'ombra improvvisa copre i pensieri. Don João, nella mia vita ho conosciuto poco lo sfarzo e il lusso e ho sempre dovuto affidarmi all'intuito. Uno sguardo intorno. A occhio e croce voi siete uno degli uomini più ricchi di Venezia. Venite a cena nel mio bordello, mi salvate la vita e mi invitate a casa vostra. Perché? Un sorriso disarmante. Annuisce. Finalmente una reazione da tedesco. Mi versa un dito di vino in un piccolo bicchiere di cristallo. E se non fosse che è così che vi chiamano, avrei fatto fatica a crederlo. Sapete, quando si arriva in una nuova città, decisi a non stare con le mani in mano, bisogna capire in fretta quali opportunità si prospettano e chi vale la pena incontrare. Mi lancia un'occhiata allusiva. I vostri conterranei li chiamano affari. Io le chiamerei affinità, che rendono la vita più sapida, aprendo interessanti prospettive. Lo interrompo. Siete sicuro che un improvvisato tenutario di bordello sia quello che cercate? Un tedesco arriva a Venezia dalla Svizzera. Ha un passato per lo più ignoto, una considerevole fortuna accumulata verosimilmente nei porti del nord, frequenta i librai e gli stampatori locali da pari a pari, sa tenere a bada le teste calde e apre il bordello più bello della città. In più, porta il nome di un eretico che ho visto bruciare fuori dalle mura di Anversa, Lodewijk de Schalidecker, meglio conosciuto come Eloy Pruinsting. Il sangue pulsa all'impazzata. Non devo perdere il controllo. Un respiro profondo. Soffio fuori la tensione. Lo sguardo fisso. Come pensate debba continuare questa conversazione? Gli occhi neri contrastano con i denti candidi, lasciati appena intravedere. Siamo tutti mercanti e fuggiaschi. Non abbiamo bisogno di convenevoli. Su questo siamo d'accordo. E allora ditemi, chi siete? Si accomoda sulla sedia, rilassato, il sigaro in una mano, il bicchiere nell'altra. La mia fuga è cominciata 20 anni prima che io nascessi, quando nel 1492 i cattolicissimi Ferdinando e Isabella, sovrani d'Aragona e Castiglia, decisero di saldare il debito smisurato contratto presso i banchieri giudei, scatenando contro di loro l'Inquisizione. I miei avi dovettero fuggire in gran fretta la prima volta, riparando in Portogallo, dove, per ovvia convenienza, abbracciarono la fede cristiana, mettendo in salvo il patrimonio. Nacqui a Lisbona nel 1514 e mia zia, Beatrix de Luna, 4 anni prima di me. Eravamo ricchi e tra le famiglie più rispettate del Portogallo. Mia zia, donna Beatrice, che presto conoscerete, incrociò le sue fortune con quelle del banchiere Francisco Mendez, poco prima del 30. In pochi anni la storia si ripeté. I monarchi portoghesi, drammaticamente sprovvisti di denaro, vararono l'Inquisizione e la scatenarono contro i giudei per acquisirne le proprietà. Ma eravamo pronti, lo eravamo da 40 anni. Mia zia rimase vedova ed erede delle fortune dei Mendez, mentre già ci apprestavamo a lasciare per sempre il Portogallo. Era il 1536 quando raggiungemmo i Paesi Bassi. Una pausa. Alza le spalle. João Míquez, João Mijas, Gianni Miché, Giovanni Miche, So Zuan, come mi chiamano qui. Il mio nome ha tante versioni, quanti sono i paesi che ho percorso. Per l'imperatore Carlo V ero Jehan Mikas. La tensione si è un po' allentata. L'espressione aperta del volto pretende che mi fidi. Siete stato banchiere dell'imperatore? Annuisce. Sì, ma con noi non è stato così generoso come con i Fugger di Augusta. Abbiamo dovuto ritagliarci il nostro piccolo angolo, strappandolo all'avidità di quei tuoi conterranei che non amano la concorrenza. Dopo qualche tempo, anche l'imperatore cominciò ad avere mire sul nostro patrimonio e propose che mia cugina andasse in sposa a un suo parente, un gentile, Francisco d'Aragona. Mia zia, che nutriva una sana diffidenza per le strategie matrimoniali dell'imperatore, rifiutò. E così, il cattolicissimo pensò bene di accusarci di criptogiudaismo. Fummo denunciati all'Inquisizione come falsi cristiani. Bella faccia tosta, non trovate? Prima ci costringono a cambiare fede, poi ce lo rinfacciano. Ma il denaro è denaro e l'Inquisizione, nei Paesi Bassi, cura soprattutto gli interessi di Carlo e dei suoi amici Fugger. Si ferma. Aspetta che colga quella che, ne sono quasi certo, è più di un'allusione. Non può sapere con precisione chi ha davanti, ma le ipotesi e i presentimenti devono arrovellare il suo cervello almeno quanto il mio. Riprende. Sapevamo che Carlo V non ci avrebbe lasciato uscire dai suoi territori facilmente, così architettammo un piano. Finsi una fuga d'amore con mia cugina Reina. Scappammo verso la Francia. Mia zia, con il pretesto di inseguire la figlia circuita, ci venne dietro. Io mi fermai al confine e, messe in salvo le donne, tornai ad Anversa, per evitare il sequestro del patrimonio di famiglia. Ci sono riuscito, soltanto dopo 2 anni di snervanti trattative con l'imperatore e comprando gli inquisitori a peso d'oro. E finalmente, eccomi qui. Un servitore scivola alle sue spalle e gli sussurra qualcosa all'orecchio. Mikes si alza. Il pranzo è servito. Siete ancora dell'idea di mangiare con noi? Esito, guardandolo diritto negli occhi. Oggi mi avete salvato la vita. Non vi trovavate là per caso, non è vero? Sorride. Il vantaggio di avere una famiglia tanto estesa è che ti si moltiplicano gli occhi e le orecchie. Ma io spero che imparerete ad apprezzarci per tutte le nostre altre qualità. Quando è cominciata la vostra fuga? Una biblioteca lussuosa, stretta e lunga, scaffali di legno interziato, volumi antichi. Alle sue spalle, dietro lo scrittoio, appesa alla parete, una scimitarra moresca. Ve l'ho detto, da quando preti e profeti pretesero rimpadronirsi della mia vita. Sono stato con Münster e contadini contro i principi. Anabattista nella follia di Münster. Giustiziere divino con Jan Batenburg. Compagno di Eloy Prunstig tra gli spiriti liberi di Anversa. Una fede diversa ogni volta. Sempre gli stessi nemici. Un'unica sconfitta. Una sconfitta che vi ha lasciato un discreto patrimonio. Come ci siete riuscito? Truffando i Fugger con le loro stesse armi e pagando il prezzo che non avrei voluto. Eloy mi raccolse quando ero morto e mi offrì vita, possibilità, persone da amare. E il vecchio istinto della battaglia, con obiettivi e armi nuove. Ha funzionato finché l'Inquisizione non ci è piombata addosso. L'ironia della sorte è che aspettavamo gli sbirri e invece sono arrivati i preti. Mi interrompe. E vi meravigliate? La nostra storia dovrebbe avervi detto qualcosa riguardo. Ho sempre creduto che quella della truffa ai Fugger fosse una leggenda. Circolavano voci ad Anversa, ma non sembrava possibile. Quanto li avete preso? 300.000 fiorini, con false lettere di credito. Un'espressione compiaciuta. Fischia. E davvero pensavate che Anton lo sciacallo sarebbe rimasto a guardare? Sarei disposto a scommettere che i corvi del Sant'Uffizio ve li ha tirati dietro lui. Nei Paesi Bassi anche l'Inquisizione è una filiale dei Fugger e di sicuro ad Anton è convenuto farvi fuori come eretici piuttosto che denunciare ad essere stato fregato. Penso che sia un miracolo che siete vivo. Rimango a riflettere. Semplici e dirette, le affermazioni di Mikes lasciano pochi dubbi. Qual è la lezione? Ti fottono comunque, bisogna restare fermi, non osare mai. Mikes, serio. Esattamente il contrario. Bisogna muoversi velocissimi, più veloci di loro, confondersi tra i molti, puntare un obiettivo, blandire i nemici e avere sempre un bagaglio leggero. Allarga le braccia, a comprendere tutto intorno. Altrimenti, cosa staremo a fare qua? Venezia, il bordello del mondo. Lo incalzo. Veniamo al dunque, allora. Cosa avete in mente? Riaccende il mozzicone del sigaro e per un attimo i tratti regolari del volto si perdono nelle volute. La stampa, cerca le parole. La stampa è l'affare del momento. Non è importante solo per il profitto. Veicola le idee, feconda le menti e, cosa non trascurabile, rafforza i rapporti tra gli uomini. Per una famiglia importante, pure sempre a rischio come la mia, ma forse, più in generale, per tutti i giudei, può essere decisivo intessere relazioni con uomini di lettere, studiosi, persone riconosciute e credibili che possono influenzarne altre nelle loro comunità di appartenenza. Se volete, è un mecenatismo interessato ed è per questo che non mi attrae soltanto la stampa giudea. Sono già in trattative con i maggiori editori veneziani, Manuzio, Giolito. Con Donna Beatrice, mia zia, abbiamo rilevato stamperie qui e a Ferrara. Pubblichiamo il Talmud, ma anche Lando, Ruscelli, Reinoso. Incoraggiamo la passione per le lettere. Donna Beatrice potrebbe rinunciare a tutte le altre attività, eccetto questa. Non ho dubbi che sia una delle donne più colte d'Europa. Si china appena sullo scrittoio. Non avreste difficoltà a capire perché mi interessa favorire il partito dei tolleranti e dei moderati, dentro e fuori la Chiesa, e ostacolare il diffondersi dell'intransigenza religiosa e della guerra spirituale condotta dal Sant'Uffizio. Mi servono persone capaci di fiutare le nuove correnti di pensiero, le opere destinate a smuovere gli animi e a mutare il corso degli eventi. Scorro i titoli dei libri allineati sugli scaffali. Testi arabi, ebraici, cristiani. Riconosco la Bibbia di Lutero. Quindi torno su di lui. Non posso fingere che il campo mi sia estraneo. Sto lavorando su un'operazione di questo tipo. Avete mai sentito parlare del beneficio di Cristo? Guarda in alto, roteando gli occhi. No, ma non escluderei che Donna Beatrice ne sappia qualcosa. Ufficialmente l'autore è un frate benedettino mantovano, ma dietro ci sono alcuni importanti letterati che simpatizzano per Calvino ed esponenti del partito moderato romano. Li chiamano spirituali. Si tratta di un libro scaltro, destinato a sollevare infiniti vespai, perché ha contenuti ambigui, espressi in una lingua che tutti possono capire. Un capolavoro della dissimulazione, sul quale già in molti si arrovellano. È stato stampato la prima volta 3 anni fa, proprio qui a Venezia. Da allora la sua fortuna non ha smesso di crescere. Ne abbiamo già pronte oltre 1000 copie, da smistare, oltre che qui, nei territori a ovest e a sud della Serenissima. Stimiamo di poterne far circolare 10.000 in 3 anni. Un cenno d'approvazione con la testa. Tamburella le dita sottili sul tavolo. Molto interessante. Un'impresa ambiziosa, che necessita di mezzi adeguati. Avete parlato dei territori a ovest e a sud della Repubblica. E perché non pensate anche a quelli a est e a nord? 15, forse 20.000 copie, impegnando più stamperie, coinvolgendo altri editori a copertura. Ho buoni agganci in Croazia e in Francia. Poi ci sarebbe l'Inghilterra, luogo di infinite possibilità. Ho le navi, la rete di contatti e decine di mercanti compiacenti, disposti a far circolare qualunque cosa. Spero che vogliate considerare tutto questo. In ogni caso, gradirei avere una copia del libro da regalare a mia zia, che è sempre in cerca dell'ultima pietra di scandalo. Certo che le sapete fare le offerte, ma non posso prendere decisioni senza aver prima consultato i miei soci. Mettersi in affari con voi significherebbe allargare di parecchio le prospettive dell'operazione. Miketz allarga le braccia e il sorriso. Comprendo benissimo. Prendetevi il tempo che vi occorre. Sapete dove trovarmi. Anche voi. Spero che avrò occasione di ricambiare l'ospitalità. Più d'una delle nostre ragazze vi ha notato. Alza le spalle e mi guarda con ironia. Ahimè, le femmine sono spesso attratte da ciò che non possono avere. Il piacere è materia opinabile e sceglie strade diverse. Si accorge del mio stupore e aggiunge. Ma non temete, Duarte e io non ci priveremo della buona cucina e dell'ottima cantina del Caratello.